Sì, sento bene, claro. Va bene, va bene. Che fa, bella? Quando c'è scelto a Fabrizio, diglielo che lo sto cercando e per fare quella quella là della macchina, glielo lascio e a me no, me lo mette a posto. Fabrizio oggi non c'è. Siamo venuti stamattina a montare le carte assieme fuori sasse. Sono sempre stasera di lui qua, non c'è problema. E va bene, non c'è problema. Ok. Ok, che tutto che cambio, compro e vendo. Mi sono passata la sciamanna della finestra, almeno quel caldo non mi entra, almeno sono al buio qua tranquillo, mi sdraio, mi faccio un paio di ore di pirichella e da voi, ciccia.